esisto anch'io per Cristo. Insisto a parlargli anche se non l'ho mai visto. E credo in un Dio che se fosse donna piangerebbe sangue una volta al mese, ma sotto la gonna. Di sicuro è single ed anch'io lo sono. Non chiamateci stronzi, io non chiederò perdono. Ho già raccolto pietre lanciate sulla schiena solo perché ho difeso la mia Maddalena. Come tuo figlio sono stato messo in croce. C'è qualcosa qui che stona e non è solo la mia voce. Visto che esisto solo, se avete bisogno aspetto mani giunte mentre ingasso pugni, perché credo in chi non mi ascolta. Mango genuflesso, fa credere di farlo mentre mi prende per fesso. Ed intercedo anche per te, tu vai tranquillo. Siamo amici e giù lacrime di coccodrillo. La mia preghiera va ad un Dio che non m'ascolta. Poi quando meno me lo aspetto arriva la svolta. Se prego un crocifisso in oro d'un legneto non importa, è la fede che ci metto anche se da tempo è morta. Ti prego ascolta chi ti prega, ti prego ascolta, ti prego ascolta chi ti prega, ti prego ascolta. Non cade lontano dall'albero la mela del peccato. Io ho sbagliato ogni volta che ho pensato che potesse essere una soluzione pregare un'entità suprema o delle persone. E qui se parli con Dio sei religioso, se invece parli solo sei un folle, un tipo alquanto misterioso. Metto fine a questa messa, in scena, manna per la massa, fiducia messa in vena. Se sono qui è perché ho sbagliato strada mentre andavo in chiesa, quindi ti chiedo aiuto tipo lista della spesa. Ed utilizzo lapis che lasciano solo un segno, cancello in primis quei ricordi per cui pago pegno. Scherzando con i santi, meno coi sentimenti, mando a fanculo tutti senza molti complimenti. Ed anche se le prendo di santa ragione, la pazienza è l'unica santa che prego. Hai ragione. La mia preghiera va ad un Dio che non m'ascolta. Poi quando meno me lo aspetto arriva la svolta. Se prego un crocifisso in oro d'un legneto non importa, è la fede che ci metto anche se da tempo è morta. Vuoi dirmi che non credi che ci sia qualcuno, anche se qui non prega più nessuno, più nessuno, che ti risolverà i problemi se lo preghi e fai digiuno? Sì, ma qui non crede più nessuno, più nessuno. Ti prego ascolta chi ti prega, ti prego ascolta, ti prego ascolta chi ti prega, ti prego ascolta. Ho visto uomini di Dio, falsi e traditori, sono un peccatore, sì, tra i peccatori. Non sono un vero fan della bestemmia, ma qui piovono porconi come grandine durante la vendemmia. E nutro speranze che mi divorano come i peccati di cui tutti si innamorano. Quindi affido la vita a qualcuno lassù e diffido della stessa, tanto muore anche Gesù. Giù le mani dal Getsemani, Giuda, dal mio amico immaginario, sì, giura che quel bacio sulla pelle nuda non è il frutto del peccato ma di una congiura. Sputi nel pozzo delle opportunità, testa di cazzo che non credi nell'aldilà, circondati da un muro di falsità. La mia preghiera contro i tuoi bla bla bla bla bla bla. La mia preghiera va ad un Dio che non m'ascolta. Poi quando meno me lo aspetto arriva la svolta. Se prego un crocifisso in oro d'un legneto non importa, è la fede che ci metto anche se da tempo è morta. Vuoi dirmi che non credi che ci sia qualcuno, anche se qui non prega più nessuno, più nessuno, che ti risolverà i problemi se lo preghi e fai digiuno? Sì, ma qui non crede più nessuno, più nessuno. Ti prego ascolta chi ti prega, ti prego ascolta.